Susanna, finiscimi l'istoria. È già finita. Dunque volle sedurti. Oh, il signor conte non fatai complimenti con le donne mie pari. Egli venne a contratto di danari. E crudel più non mama. E come poi è genoso di voi. Come lo sono i moderni mariti, per stima infedili, per genio capricciosi e per orgoglio poi tutti celosi. Ma se Figaro dama e il sol potria. Eccolo, vieni mi come dammi pazienza. A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? E naturale. Possibile naturale. Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima. Finisce la volta. Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierme corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato gnor rifiuta il diploma d'onore che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare. Ed hai coraggio di andare scherzando un negozio sì serio. E non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto li fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo è un amante voi d'est. Oh ciel, che sento ad un onsi celoso. Oh, ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciarli progetti, empirlo di sospetti e porli in testa che la moderna festa che i di fara me tenta, altra lui faccia, onde qua perde il tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto e senza che abbia fatto per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze e in faccia a lei non fia così d'opporsi ai voti miei. Mai dire invece sopporrò Marcellina. Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancora partito, da femmina vestito. Faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde Monsù, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama. Che ti parla un cimoglio nel nostro caso? Voglio il persuaso, e dove il tempo? E tu il conto alla caccia e per qualcuno non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo. E poi? E poi, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.